settimana nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 9 settembre, il sole in regione è sorto alle 6.37 e tramonterà alle 19.31. Oggi c'è luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Rita Micoli. Una delle riprove che in agricoltura si stanno riscoprendo i valori del territorio, delle tradizioni e dei sapori antichi è data dal continuo aumento dei caseifici agricoli che nel prossimo fine settimana, come fatto per il vino nel passato, organizzano la loro prima festa nazionale, aprendo le porte alla gente per farsi conoscere e degustare. Enos Costantini nel suo corsivo parlerà di Piazza San Giacomo, alias Piazza delle Erbe, il salotto buono della città e di come sia cambiato da quando era un terminal per le produzioni orticole del territorio. Formazione PSR invece è il tema della rubrica delle normative, mentre con Sandro Menegon inizia un'altra serie di contributi dedicati alla storia dell'allevamento in regione. Questa volta si parla di bovini. Alle ninfee, ai laghetti fioriti è dedicata la rubrica dei giardini, mentre parlando di storia della grappa siamo alle prime distinzioni tra liquore da bere e liquore per curare. Andamento dei mercati, previsioni del tempo e proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Sono in continuo aumento. In Friuli Venezia Giulia ne sono stati censiti 46. Stiamo parlando dei caseifici agricoli, nuove realtà che per certi versi tendono a recuperare vecchi saperi e anche sapori. Ne parliamo con Antonio Menegoz, tecnico dell'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia. Innanzitutto, chi può fregiarsi del titolo di caseificio agricolo? Il caseificio agricolo è chi trasforma il proprio prodotto in azienda, e quindi la materia prima che lui produce lo lega quindi al territorio, riscoprendo anche tutto ciò che il territorio ha espresso in termini di tradizione, quindi imprimendo insomma il massimo della caratterizzazione attraverso appunto la sapienza, le abilità specifiche delle persone, ma appunto valorizzando tutto quello che il territorio riesce a dare, perché non dimentichiamo che noi siamo quello che mangiamo, qualcuno dice, no? E anche il latte, voglio dire, è legato indissolubilmente insomma alla produzione, quindi al territorio, perché gli alimenti degli animali arrivano da lì, insomma. Non solo latte bovino. Sono riscoperte anche certe specie, che per esempio gli ovicaprini, che nel dopoguerra erano andati scemando, e in questi ultimi anni, ecco, soprattutto i caprini, ma anche ovini, e quindi c'è anche questo tipo di realtà. Avevamo parlato anche di vecchi sapori e saperi. Questi sapori sono amplificati da tutta una serie di fattori, ne cito alcuni particolari che caratterizzano queste aziende, per esempio il tipo di alimentazione scelta è sempre più fatta con foraggi affienati in maniera tradizionale, oppure la scelta di come lavorare il latte, più di qualcuno attualmente lavora al latte crudo, quindi latte non pastorizzato, sappiamo che la pastorizzazione appiattisce in un certo qual senso la variabilità biologica del latte e questo naturalmente implica un grosso impegno anche per le aziende, perché vuol dire avere una materia prima perfetta per ottenere il risultato che si vuole, oppure qualcuno anche che decide di scegliere la via, la modalità biologica. Il prossimo weekend questi caseifici organizzano la loro prima festa, perché? È nata questa a livello nazionale da un'organizzazione che si chiama Azienda Agricola, che mette assieme queste realtà che producono per dare della visibilità a questi caseifici agricoli. E c'è un fatto promozionale dietro, è ovvio, cioè chiunque produce in qualcosa ha l'interesse a valorizzarlo anche dal punto di vista commerciale, ma soprattutto per la coscienza che non può esistere valorizzazione del prodotto se non c'è da parte del consumatore la conoscenza di tutto quello che ci sta dietro. Insomma, l'abbiamo visto col vino, questo passaggio, e credo possa ottenere dei risultati interessanti anche in altri settori come questo caseario, soprattutto di caseifici agricoli, cioè conoscere tutto quello che sta dietro, soprattutto e anche le dirette i diretti produttori. Ultimissima domanda, si vive con un caseificio agricolo in casa? Si vive di grande passione. C'è un recupero forse anche delle tradizioni, c'è un po' causa anche, credo, l'andamento economico che ha fatto riscoprire, o forse anche per un'esigenza culturale di un ritorno a certe origini, alla riscoperta di certi mestieri, perché è fondamentale, io vedo molta passione insomma, in queste persone che si dedicano a queste attività. Si vive, Ecco, si vive. Si riesce in qualche maniera a contrastare questo grande fenomeno economico che ci mette un po' tutti in difficoltà, grande distribuzione, insomma le conosciamo tutti quali sono i problemi. Insomma. E per chi volesse andare a far festa, tutti i particolari sul sito internet www.caseificiagricoli.it. Piazza San Giacomo a Udine era ed è il salotto buono della città, ma com'è cambiata da quando si chiamava Piazza delle Erbe e aveva degli esiti che si incrociavano con la campagna friulana? È andato a vedere Enos Costantini. Piazza San Giacomo a Udine è un defilé continuo di cinofilia militante e di lusso, dove si va dal formato Epsilon a quello extra large di cani con padroni al guinzaglio. Non fu sempre così. La piazza, sorta un migliaio di anni fa col nome burocratico di Foro Novo e con quello popolare di Marchiat Nuuf, nella lingua da tempo morta degli udinesi, fu sede di forche e patiboli per pene capitali, vi si allestirono roghi per le streghe e l'immancabile berlina per reati minori. Fu anche sede della zecca patriarcale, di pescherie e di macellerie, e fu soprattutto il mercato delle verdure provenienti dal contado. In documenti seicenteschi compare come Piazza dell'Insalata, e qualcuno ricorda ancora che era detta Piazza delle Erbe, dove con erbe si intendevano le piante alimentari erbacee tanto spontanee che orticole. Insomma, un servizio di farmers market per la città. Dal produttore al consumatore, un chilometro zero fatto di contrattazioni anche vivaci, nelle quali i cetrioli erano ancora detti cudumeri, tanto da chi vendeva che da chi comprava. Qui avveniva lo scontro città-campagna, con salaci battute da ambe le parti. E le contadine non si lasciavano certo mangiare la fava sulla testa dalle cittadine. E citiamo un detto con la fava perché l'ora del desinare, quando il mercato si calmava, era scandita da una campana chiamata per l'appunto Chiampane de Fave, in quanto questa leguminosa era il piatto popolare per eccellenza, oggi si direbbe staple food, degli udinesi. Aggiungiamo che lì nei pressi si apre una via detta delle erbe, perché le contadine vi vendevano sementi e piantine da raventare. La medesima area ebbe pure il nome di Contrada della Salata e Contrada dei Meloni. Qualche problema era creato dalla invadenza dei maiali e un proclama del giugno 1722 proibisce ai mercanti di lasciar vagare gli asini perché fanno strepiti et insolenze. Da allora molta acqua è passata nella vicina roggia, salvatasi dai tombinamenti dell'igienismo postbellico. I vegetali eduli dei dintorni, fatta salva qualche lodevole eccezione, sono merce rara, e il contado è scomparso nel consumo di suolo. Anche la fauna è molto cambiata in questa storica piazza. Non più vuiccanti suini che rovesciano bancarelle, né asini che fanno strepiti. Solo qualche insolenza da parte di una chianeule che ti lecca i malleoli mentre bevi il caffè. E Dio non voglia che si tratti di un Rottweiler in vena di confidenze. Qualche mese fa abbiamo già parlato della formazione professionale in agricoltura finanziata dal programma di sviluppo rurale. A tal proposito, Marco Malisone, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, ci ricorda oggi alcune scadenze. Sì, anzitutto ricordiamo che il programma di sviluppo rurale ha un budget dedicato alla formazione, allocato sulla misura 1, chiamata appunto trasferimento di conoscenze e azioni di informazione, e per il Friuli Venezia Giulia parliamo di circa 3 milioni e mezzo, dei quali 2 e mezzo destinati alla formazione collettiva e 1 milione al coaching, ovvero alla formazione individuale. E possono accedervi i titolari di impresa individuale, i soci se trattasi di società, i proprietari di terreni agricoli o forestali, i gestori di aree forestali, insomma tutti i potenziali beneficiari dei fondi PSR. Ma la formazione è sempre volontaria? Allora, di norma è volontaria e tra l'altro è una vera opportunità, considerato che per l'utente è totalmente gratuita. Però diventa obbligatoria, pena la revoca di aiuti e l'eventuale recupero delle somme già erogate, per chi ha beneficiato o sta beneficiando della misura 10, cioè pagamenti agroambientali, della misura 11, agricoltura biologica, della misura 14 del benessere animale, oppure del pacchetto giovani o dei progetti di filiera. Inoltre è obbligatoria per i beneficiari della misura 3.1, quella relativa ai regimi di qualità, se questi soggetti, per guadagnare qualche punto in graduatoria, all'atto della domanda si sono impegnati a fare un percorso di formazione. Ci sono delle scadenze? In questo caso sì. Per chi ha aderito alla misura agroambientale al biologico con il bando del PSR 2015 deve completare la formazione entro il 31 dicembre di quest'anno. Pertanto, se non ha già frequentato corsi o non si è già iscritto, è bene che prenda urgentemente contatto con i centri di formazione, perché diversamente rischia di non farcela entro la fine dell'anno. Invece, per chi ha aderito ai bandi del 2016 ha tempo fino alla fine del 2019, mentre i beneficiari del pacchetto giovane o dei progetti di filiera devono completare la formazione prima della conclusione degli investimenti. Riprende con Sandro Manegon la rubrica dalla pastorizia alla zootecnia, occupandoci di bovini, forse l'animale che più ha segnato la vita nei campi, anche in Friuli Venezia Giulia. Come per le altre specie trattate, volendo appunto cogliere il passaggio dalla pastorizia alla zootecnia, partiremo dalla metà dell'Ottocento, quando la più volte menzionata Associazione Agraria Friulana evidenziava la necessità di migliorare la popolazione bovina della provincia di Udine. Alla metà dell'Ottocento si cominciano a proporre i provvedimenti creduti atti al miglioramento del bestiame, a diffondere le cognizioni zootecniche igieniche, a combattere le false e dannose pratiche e pregiudizi dell'empirismo. Dopo l'annessione al Regno d'Italia, le iniziative intraprese dall'Associazione Agraria Friulana che hai appena nominato sono state recepite, diciamo, dalla nuova amministrazione? Direi di sì. Già nel 1867 furono istituite le prime condotte veterinarie, mentre l'anno successivo si effettuò un censimento del patrimonio zootecnico locale, che al di là della consistenza numerica evidenziò le difficoltà che impedivano un più razionale allevamento bovino e favorì discussioni e scambi epistolari tra i personaggi più autorevoli del tempo, generalmente riportati sul bollettino dell'Associazione Agraria Friulana. Nel 1969 si evidenziava la necessità di potenziare la concimazione dei prati e di incentivare la coltivazione della medica del trifoglio. Le mediche fa srindi il terreno e fa scresi la greppie, e si stanziarono 50.000 lire che furono ripartite nei bilanci del periodo 1870-79 per l'acquisto di tori ritenuti idonei, e nel 1880 venne istituita la commissione per miglioramento bovino. Era iniziato il progresso, insomma. Indubbiamente, va inoltre ricordato che la legge nazionale del 1908 sull'approvazione preventiva dei tori da destinarsi alla monta pubblica contribuì moltissimo al miglioramento del comparto bovino, e che nel 1913 la deputazione provinciale nominò un ispettore zootecnico, il primo in Italia, nella persona di Mario Muratori. Un notevole contributo lo diedero anche le prime forme di associazionismo, come le laterie sociali e tornari, le mostre, esposizioni, eccetera, che evidenziavano i risultati ottenuti e potevano dare utili ammaestramenti e quel sano spirito di emulazione che è spinta nobilissima degli umani progressi. Quest'anno è stata un'annata eccezionale per ninfee e fior di loto, e un pochettino per tutti i giardini acquatici, che sono il tema della puntata di oggi che Franca Merluzzi ci fa parlando di giardini, in particolare di uno di Artegna. Chi dall'alto del castello di Artegna guarda il borgo ai piedi del colle nota due specchi d'acqua riflettenti. Fanno parte di un giardino molto particolare realizzato da Paolo Menis, un arteniese cultore delle piante a cui piace molto sperimentare. Anni fa è rimasto folgorato dalle ninfee che tappezzavano il lago di Blede, e così si è costruito da solo laghetti sempre più grandi fino agli attuali, uno a L per il giardino d'acqua e uno rialzato per le ninfee tropicali, colorate profumate, vigorose, con le loro foglie piatte adagiate sul pelo dell'acqua, le tropicali hanno grandi fioriture estive e quest'anno sono state davvero eccezionali per 2 mesi. Alcuni anni fa Paolo ha sperimentato la coltivazione di Victoria amazzonica, una gigantesca ninfea del Rio delle Amazzoni, le cui foglie hanno raggiunto il 1,20 m di diametro. Nel vicino giardino d'acqua spiccano i fiori di loto, dalle belle foglie verde chiaro, idrorepellenti, accanto ad altre varietà di piante acquatiche, quali Thalia de albata, varietà di equiseto, di menta, di carex, Tifa minima, Pontederia lanceolata, alba e rosa e iris acquatici, e poi un piccolo salice e tante ninfee rustiche tropicali, da quest'anno messe assieme. La fioritura è stata costante e se il tempo sarà buono durerà ancora. I colori vanno dal bianco al rosa, al giallo, al salmone, alle tonalità più forti, viola, azzurro chiaro e blu. Una meraviglia. Problemi particolari nella coltivazione? Paolo non ne vede. L'unico inconveniente delle piante acquatiche è che lo sviluppo che va contenuto perché sono vigorosissime. Le ninfee rustiche resistono a temperature siberiane, le tropicali invece vanno portate all'interno fino a quando la temperatura dell'acqua si aggira sui 25 gradi, da noi verso la fine di maggio. Vengono poi aggiunti alcuni pesci, sempre d'acqua dolce, tra cui la gambusia, che si ciba di larve di zanzara, che convive qui assieme ad altri pesci. Paolo ha un desiderio, vorrebbe avere di nuovo anche la biscia d'acqua. Anni fa c'era, ma purtroppo c'è stato uno scontro con il gatto di casa. Oltre a quelli di Artegna, altri laghetti da lui realizzati si possono vedere all'ospedale civile di Udine. Il principale è presso il padiglione numero 5 e un altro presso il padiglione numero 6 con ninfee rosse. È contattabile tramite la pagina Facebook. Liquore da bere, liquore per curare. Si intitola così il contributo di oggi di Gabriele Cajazza sulla storia della grappa ed è facile intuire quali siano stati gli esiti del distillato più popolare in regione. Molti ancora affermano che l'acquavite fu portata in tavola nel 500, ma alla luce di quanto detto prima della nostra pausa, ciò non è più sostenibile. La documentazione passata in rassegna permette infatti di anticipare nettamente quella datazione. È vero però che l'acquavite continuò a lungo a essere impiegata anche come preparato terapeutico, per esempio durante le pestilenze e anche per i bambini, addirittura a dosi massicce. Pensiamo al mezzo quarto o all'ottava considerati somministrabili ad uno mammolo o ad uno piccolino in un esperimento della fine del 400 primo 500 con grappa considerata perfettissima a guarire peste e vermi. Fino al secolo scorso, un detto popolare ripeteva che la grappa fatta in casa non fa male neanche ai bambini. Difatti, considerate le proprietà curative riscontrate negli alcolici, o almeno ritenute loro prerogativa, in passato si credeva che i distillati non avessero gravi controindicazioni. D'altra parte, ignorata dal ceto medio, rifiutata dai nobili, denigrata e aborrita dai più famosi poeti e scrittori, l'acquavite ebbe a lungo i più validi estimatori niente meno che fra i medici, che ne apprezzarono, se assunta in maniera oculata, i benefici effetti sull'organismo umano e le molteplici qualità dietetiche. Ancora 30 anni fa, si ricordava che ai tempi della distillazione porta a porta, la testa del distillato era messa da parte e usata al bisogno per massaggiare gli arti degli anziani affetti da reumatismi. Trattamento sanitario popolare, praticato anche in Istria, dove, non disponendo delle teste, si usava direttamente la grappa tenuta sotto chiave dalle mamme nella credenza. Quest'ultima nota attesta come un tempo si lesinava con parsimonia qualsiasi cosa nelle case della gente comune, e tanto più si centellinavano gli alcolici, assaporandole a piccoli sorsi o reimpiegandone persino gli scarti. Forse si voleva credere che i superalcolici non causassero danni particolari, pur sospettando il contrario, visto che un altro motto popolare ricordava che la grappa purifica, disinfetta e santifica. Se non si può negare fosse impiegata nel trattamento di alcune patologie respiratorie o nella disinfezione delle ferite, probabilmente la sua presunta virtù santificante si riferiva non tanto al suo potere corroborante, capace di riportare in forze persone deboli, svenute o spaventate, quanto al fatto che a lungo andare, soprattutto se di produzione domestica, essa era in grado di mandare il fruitore all'altro mondo rispedendolo al creatore. Pare confermarlo ancora un ultimo proverbio. Chi parte con la grappa sale al paradiso. Oltre a alludere allo stato di felice ebbrezza, smaltimento rallentato, assicurato al bevitore moderato, esso pare riferirsi pure al traguardo finale garantito sia al consumatore smodato, sia a chi produceva in modo approssimativo la propria aghe di vite. Ed ora il microfono a Reginetta Giacomini per l'andamento dei mercati agricoli. Spunti di flessione venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole alla Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,8 e 17 euro il quintale IVA esclusa, il frumento tenero buono mercantile tra 18,7 e 19 euro, l'orzo tra 18,80 euro e 19,3 euro. Rispetto a un anno fa il prezzo del mais è diminuito di 10 centesimi, quello del frumento è aumentato di 2,10 euro il quintale. Positivi gli scambi al mercato frutticolo di Udine con l'insalata Gentile valutata 1,60 euro al chilo IVA esclusa, la lattuga Trocadero 1,40 euro, le zucchine in fiore 2,50 euro, le melanzane tonde 1,40 euro, i pomodori italiani in grappolo 1,50 euro, i finocchi tra 1,20 euro e 1,50 euro, il radicchio rosso tondo tra 1,80 euro e 2 euro, i peperoni gialli e rossi italiani tra 1,10 euro e 1,40 euro, le patate tra 50 e 75 centesimi, l'uva tra 1,30 euro e 1,80 euro, le mele golden tra 1 euro e 1,20 euro, le pere tra 1,30 euro e 1,80 euro, le pesche noce 80 centesimi, le pesche tra 1,40 euro e 1,80 euro, le angurie 30 centesimi il chilo. Sostenuta la domanda nel comparto caseario con il montaggio fresco quotato tra 5,10 e 5,80 euro il chilo IVA esclusa, quello di 4-6 mesi tra 6,50 euro e 7 euro, con marchio di qualità tra 7,40 euro e 8 euro, lo stagionato tra 7,60 euro e 8 euro il chilo. Scambia rallentatore infine sui mercati aviconicoli con i prezzi sostanzialmente stabili rispetto alla settimana scorsa. Per le uova da 63 a 73 grammi il prezzo è confermato a 11 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA Osmer Livio Stefanuto diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante. Dopo il passaggio del fronte di giovedì e venerdì, che ha portato dei temporali sparsi sul nostro territorio, specialmente sulle Prealpi e sull'alta pianura, un promontorio anticiclonico si va espandendo sul Mediterraneo, portando aria più calda e atmosfera più stabile. Il tempo sarà bello ed estivo sulla nostra regione, con cielo prevalentemente sereno su pianura e costa, mentre in montagna sarà bello al mattino con possibile nuvolosità pomeridiana e forse qualche locale rovescio temporalesco più probabile nella giornata di lunedì. Martedì l'arrivo di aria più mite in quota porterà ad una maggiore stabilità atmosferica. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso con delle velature in quota. Le temperature rimarranno prettamente estive, ma con una marcata escursione termica giornaliera. In pianura andremo dai 15 ai 30 gradi, mentre sulla costa le temperature varieranno da 19 a 28 gradi per l'effetto mitigatrice del mare, che ha una temperatura di 25 gradi, e per i venti di brezza. Nel prossimo weekend l'anticiclone tenderà a ritirarsi e sull'Europa torneranno a dominare le correnti occidentali. Venerdì e sabato un fronte atlantico potrebbe interessare l'Italia, portando piogge e temporali diffusi ed un calo della temperatura di 6-7 gradi. Poi, da domenica, il tempo potrebbe già iniziare a migliorare e le temperature ad aumentare. Come sempre, vi consigliamo di seguire gli aggiornamenti che verranno emessi dallo Osmer ARPA nei prossimi giorni. Buona domenica! Termina qui la puntata. Vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano della settimana: se al plu fa San Gorgon, siet montani se un montanon, ovvero se piove il giorno di San Gorgonio, oggi il 9 settembre, ci saranno 7 temporali e un temporalone, ci si passi il termine. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it e potete trovarci sulla pagina Facebook Vita nei Campi e anche riascoltarci sulla pagina web www.rainews.it/tgr/fvg. Armando Mucchino, Rita Micoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei Campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.